qui. Hola, attenzione alle 10, c'è qualcuno? Attento 10. Hola. Che è avanti? Sì, ciao, buonasera, Roberto da questa parte, non ho capito chi sei però. No, non ho capito il tuo nome, ho capito se sembra Ramme Mobile d'Alghero, però il nome non ho capito, se vuoi ripetere. Rosso, nominativo Rosso, il nome com'è? Ah, ok, ok, no, infatti non riuscivo a capire il nome. Ok, ma sei in camper, cosa sei? Su un camper? Lavorando o in giro di piacere? Ma io, come me ascolti da quelle parti? Tu sei intorno all'8, un po' di QRM ti porti appresso, intorno al 4 la radio. Io sono Sassari, zona alta, zona stadio, dai. Sta caricando perché dal pomeriggio, da stasera, stanotte inizia a piovere, domani, domani piove tutto il giorno, per cui ci sarà un po' di carica elettrica nell'aria. Dove sei, Malghero città o sei fuori Alghero? E cazzo, sta andando bene allora, se le macchine a 6.9 adesso, questo passaggio. Ok, la radio cos'è? Una 48? No, no, sta andando bene, ti ascolto. Adesso in questo passaggio radio 5, 9 di Santiago, va benissimo. No, ma di subito in questo momento non c'è. Che antenna c'hai? Antenna grande? Sì, allora sta andando bene, non ci sono problemi, ok. Oh, non lo so, sono appena arrivato, rientrato, e poi ci vediamo un pochettino. Tu dove sei? Di che zona sei? Non so se ci hai mai ascoltato, qua sul 10, diciamo abbastanza spesso ci stiamo, c'è un gruppetto qua di Sassari, non ce la c'è, stato neanche a Chiaramonti. No, no, dico, se tu c'hai un'antenna a casa fissa, capito, di lì c'era Carlo di Chiaramonti, il radioamatore mi sembra, no? Ma sta ancora operando, ancora è operativo. Qua a Sassari, diciamo, gente appassionata ce n'è tanta, anche se un pochettino si stanno perdendo, per dire, entrano a gruppi. Poi c'è Porto Torres, c'è una piccola ruota a Porto Torres, e poi c'è qualcuno di Ozieri, che probabilmente di lì a Chiaramonti lo ricevete molto bene. Vabbè, Claudio è un po' più su di me, c'ha una postazione la migliore di tutti, è quello che arriva più forte di tutti, perché è molto in alto, c'ha anche lui posizione e antenna, diciamo. E poi, diciamo, senza falsa modestia, probabilmente è di quelli di Sassari che arriviamo meglio, lui è numero uno, io dovrei essere il numero due, dai. Ma a Chiaramonti non mi ricordo di aver collegato, però andando a Chiaramonti qualcuno l'ho preso, quando Claudio Sparviero andava a lavorare, c'era tutta, quando andava a Perfugarsi, la Perfugarsi lo sentivamo e lui ascoltava, non tutti, però a me mi ascoltava, poi Ozieri l'ascolto, Pattada, lui arriva bene da tutte le parti perché è in alto, non ci sono problemi, sicuramente è qua il numero uno, torre di controllo, infatti per quel motivo lo chiamiamo. Ehi, non c'è problema, adesso stai aumentando comunque il segnale, sei oltre 9, ti ascolto oltre 9, comunque dai, prosegui, non ti voglio disturbare la camminata, il rientro. Ehi, dai, monto la gita, buon rientro anche a te, dai, se coincide, se ci siamo, vediamo di farle le prove. Io faccio una chiamata generale adesso sul 10, se nel frattempo c'è qualcuno che vuole entrare, se no rimango in stand-by. Avanti sul 10 che vuole entrare. Tu, se stai parlando, sei molto basso, c'è qualcuno sotto, sei in mezzo a QRM, se riesci a fare qualcosa per migliorare, non riesco a capire di quello che dici. Attento 10, c'è qualcuno? Hola? Attenzione, c'è qualcuno qua sul 10? Hola? Mi ascolti, Nicola? Ciao, Robert. Aspetta un attimo, ciao Luca, mi ascolti Rosso? No, ti ascolto perfettamente, Santiago 9, sei qua di segnale, dammi un rapporto anche a me. Aspetta un attimo. Prova, prova. Guarda un po' come mi ascolti adesso, ho provato a cambiare il microfono, stavo provando un altro microfono con altre regolazioni, adesso è il suo, quello che uso solitamente. Vediamo se ascolta a me, Robert. Avanti Rosso per Luca, guarda se ascolti Luca, avanti Luca per Rosso. Adesso lo sento basso basso, dov'è? È entrato nella stanza di tempio, qua sta arrivando oltre 9 di segnale. Vabbè, non ha niente, dai. Ma tu dove sei? Non sei a casa tua, Luca? No, no, giù a 25. Ah, per quello sei più basso, sei 9-10 abbondante qua. Ok, mi ascolti ancora Rosso a me? Ehi, va benissimo. E no, tu qua a questo passaggio sei 9-10, sembri qua vicino. Forse ci abbiamo un varco molto aperto. Ma voglio vedere se si da dove arrivo, si da quando mi ascolti. Ti presente, io non sto spingendo, sto entrando, sto uscendo abbastanza pulito, una diecina gliene sto dando, non di più. Vabbè, sarai tu la torre di controllo, vedrò un po'. Già gli ho detto a Claudio, è bello sull'ugone, sui gradi. E gradini. E poi va a caga. Ascolta Claudio, deve vendere orecchie di porco, sta facendo. sposo Claudio, che siamo in ottimi rapporti, non c'è problema. Comunque ti ascolto sempre bene, a te carissimo, da Ploa, dove hai superato Ploa che mi ha detto. Adesso ti sei un po' abbassato, 6-7, però ti tiro fuori comunque. Vediamo un pochettino fino a dove riusciamo a sentirti, considerando che sei in macchina tra l'altro. Robè, mi assento, vado a farmi la doccia dopo. Dai, ti sto tirando fuori, adesso ti sei abbassato sempre 7, sì, poco fa eri 9 più 10 nel passaggio precedente, ma ti tiro fuori abbastanza bene, considerando che sei in movimento. Purtroppo ho molto QRM oggi, sono più di 6 di QRM, intorno al 6, dai 5-6, per cui a un certo punto probabilmente ti perderò quando passi in mezzo a qualche conca, a qualche valle. Sei in mezzo a QRM adesso, in questo passaggio ti sento a malapena. Ti sento piccolino piccolino, Nicola, adesso in questo passaggio. Ti ripeto, c'ho molto QRM qua in questa zona, probabilmente forse sta caricando la pioggia. Ti sento in mezzo al QRM, mi dispiace, vediamo se migliora un pochettino quando ti sposti da qualche altra parte più avanti. Ecco, ti sento basso, basso, basso. Non so se tu mi stai copiando, speriamo meglio rispetto a, cioè se riesci a migliorare un pochettino. Purtroppo, ti ripeto, c'ho questo QRM che sta sollevandosi sempre di più. Sta arrivando probabilmente al temporale perché mi arrivano delle scariche di tipo lampi e cose del genere, probabilmente sta caricando. Che avanti. Buonasera, Daniele da questa parte. Beh, Daniele, cosa sei combinato? Buonasera, Robbe, niente. Passando il tempo, 5 minuti. Scusa, Daniele, no, stavo rispondendo. Ehi, affai, Robbe. Beh, con cosa stai uscendo, Daniele? Non ho capito, cosa, Robbe? Con cosa stai uscendo? Con un preamplificato, una radio normale, dai, niente di che. Ma sai che sta chiamando coso Nicola da, che sta andando verso Chiaramonti? Mi ascolti Nico? Sì, ti ascolto Nico, piccolino piccolino, sei Santiago 7, però purtroppo ti ripeto c'ho il QRM troppo alto. Dove sei arrivato non ho capito però. Sei quasi 9 adesso, adesso ti ascolto bene. No, adesso stai arrivando bene, c'era quel pezzettino di passaggio, eri Santiago 6-7, però ti ripeto c'erano scariche, mi arrivavo, non riuscivo a capire quello che dice, adesso sei 9. Tu mi ascolti ancora? Poco fa Nico ti ascoltavo perfettamente, adesso ti sei abbassato parecchio. Ti ripeto, sempre QRM ti copre. Poco fa sei arrivato a 9 quando stavi all'ingresso di Chiaramonti. Tu mi ascolti sempre? Purtroppo arrivano delle scariche di fulmini, tipo deve essere se c'è temporale in arrivo, come stai parlando, tac. Vabbè, qualcosina abbiamo fatto, siamo riusciti a farci sentire un pochettino, dai. Nico, mi dico, tu Daniele hai ascoltato a Nicola? No, Robbe, perché c'ho il QRM alto anch'io. Capito? Vabbè, non so se lui ascolta a me, boh. Ti hai presente che mai? No, adesso appena ho tempo, migliora il tempo, piazzo un'antenna come si deve, vediamo un pochettino, riusciamo a farci ascoltare anche meglio. Cava, cava, cava, cava. E sta arrivando, deve essere una bassata di acqua, dice che la Monti sta già piovendo, adesso arriverà pure da noi. In teoria ha messo pioggia in questi giorni, poi se... se le cose sono cambiate non lo so, Robbe, non ho più guardato il meteo. Va bene, va bene. Ma la ventola non riesce a far nulla, Daniele. No, Robbe. Nel mio modo procuro un alimentatore migliore, questo di quelli cinesi, cavolo. E ho 50 ampere, sì, ma adesso vediamo cosa riesco a fare. Allora me lo procuro uno switching, insomma, discreto. Oppure, vediamo. Perché sta fastidio anche a me, cavolo. Sembra che ho il ventilatore attaccato. Lo so, purtroppo è molto rumorosa. Peccato, perché stai uscendo bene di radio, c'è un bel segnale. Questi switching sono una gaggada, non servono a niente, sono troppo tirati. A meno che non ti prendi una cosa sofisticata, ma sono sempre con la ventola attaccata per avere qualche ampere in più, li tirano il collo. Io sono sempre di quelli a trasformatore e basta, che ti danno meno problemi, eccetera, eccetera. Guarda, io anni fa c'avevo il Proxel switching, c'avevo il termostato, come iniziava a scaldare si attaccava da sola, poi si staccava. Ma questi di computer non puoi neanche escluderle perché sono fisse, attaccano direttamente perché per avere spazi ridotti tirano il collo, si mettono pochi dissipatori e lasciano la ventola attaccata anziché aumentare, cioè ridurre i componenti, aumentare il numero di componenti per avere più ampere, per metterli in serie, per aumentare la potenza, invece no, e muore uno gli dirà il collo. Break. Registrato. Aspetta che c'è Nicola. Nicola, ci sei ancora? Scusate un attimo, dai Nicola, vabbè dai, ti sento piccolino, dai, ci sentiamo alle prossimine, è stato piacere ascoltarti per la prima. Ok, ti saluto, buon proseguo di giornata, ciao, avanti, chi è il break? Natalino sono, buonasera. Sì, è arrabbiato Natalino. No, ma è cattivo, lui è arrabbiato. Giovedì scorso mi hanno operato, sono andato di mattina e di sera mi hanno dimesso, tutto a posto, tutto fatto, manco male. C'è anche Daniele, vai Daniele per Natalino. Buonasera Natale, ben ascoltato. Ehi, ciao Daniele, ben sentito anche a te. Daniele, ma non li puoi mettere in raffreddamento al liquido, li buoni un radiatore, li buoni una vaschetta di recupero e ti fai il raffreddamento al liquido all'alimentatore. Non ci ho pensato io, Robè. Adesso vado e lo faccio. Le mettiamo il radiatore. Ma dimmi un po', che macchina c'hai? Con cosa stai uscendo adesso? Macchina, l'altra l'ho venduta, quella bianca, Robè. Lo so, che cosa c'hai adesso? Niente, ne sto cercando una. E che cosa vuoi? Lo vuoi un Tucson a prezzo regalo? No, non ne voglio giocattoli, no, Robè. E cosa vuoi? Che genere vuoi? Guarda, io stavo pensando a un Discovery. Discovery però vecchia generazione, no, nuovo. Quelli a telaio stai parlando. Si conferma, poi sto valutando, guarda, o prendere un Pajero o un Toyota, adesso vediamo. E il Patrol non ti piace? La petroliera. Mi sa Patrol. Già ho capito, boh, non mi ispira più di tanto, Robè. Ecco, adesso vabbè, ce l'aveva un amico mio carissimo che poi l'ha dato a un altro amico mio, il 3003 Turbo, ma è un trattore, cacchio, 6 cilindri, quello non lo fermi mai, c'ha un motore allucinante. Quant'è? Quello è più di 3000, cos'è? 3005, 4000? 3003, non so quanti chilometri ci ha riuscito a fare, adesso ne avrà 400.000 col motore, ma sta sempre andando. Trattati bene, già durano. Aspetta, facciamo riprendere Natalino, riprendi Natalino. Bianco Panerà. Sì, scappa. E cosa riprende? Non è a Santa Rosa, no? È entrato per un saluto, capito da me. Già va bene. Piano piano. Beh, tutta la concetta è dei saluti. Eia, è musica. Dice che vi ha trovato, che sta mandando Vulcano e vi ha visto che è informato. Eia. E anche il terremoto c'era. Il coso, come si chiama, il leone? Si fa un'intelligenza tremenda questa. Eia. Aspetta, che mi hanno mandato un messaggio, e c'ho il telefono giù, aspetta. Chi è? Daniele, come sto uscendo di radio? Buona! Super 5 Natali! Allora già è buono questo microfono! Già funge! Indovina che microfono è? Cos'è? Un più 5, un più 4, cos'è? Ah, un Turner più 3, quello grigio è però. Non è quello nero, è uguale, però è grigio. È originale questo qui. Così. Già funge. Bene, meda. La mia, bene, vai, modulazione, Natali. E te credo. Cava. Devo risolvere questa ventola che si sente parecchio, no Natali? Io ce l'ho switching, però questo è di quelli buoni e non ne fa rumore. Capito? O te lo compri come il mio, oppure te lo prendi col trasformatore. Io ce l'avevo da 40 ampere, l'ho dato insieme al 440, però il mio l'avevo voluto modificare, era 40 ampere, se no non li dava, e allora l'ho dovuto modificare per darli, se no si usava con gli apparecchi da radio. E se era un mostro quell'alimentatore, me ne sono pentito, le mani mi dovevo portare. vai, qui c'è l'alimentatore Cuocuomane, c'è il vai. E vai tu, Cuocuomane. Tutto qua, tu Luca, comunque. Ah! Che giovedì mi hanno operato, sono andato la mattina e la sera mi hanno dimesso, tutto fatto. Ah, meglio così, stai meglio, sì. Sì, non c'è paragone, non c'è più quella roba, la pancia era lì, mia. Quei dolori della pancia non mi vengono più. Mi tirano solo i punti, mi tirmi, che c'ho. La medicazione già me la faccio io, il giorno 12 devo andare a controllo. Ah, meglio così, che c'è? Daniele e c'era Roberto anche, però Roberto sta facendo cosa? Già rientrerà poi. Avanti Daniele. Luca. Sì, amico, che metto lo Smith, che bello, è bello limpido, sono contento di questo baracchino, ma me l'ha posto, va. Meglio così, Luca Rie. Cava, cava. Dal tecnico l'ho portato, lo volevo cambiare. Vero? Beh, per forza. È costato, però vabbè, ne passa la pena. Ti metto il gol tecnico, io massi lui a farlo. No, perché quello là è proprio inchiodato, questo qua è. Va, bello limpido, limpido, bello, va. Sono felice. Secondo me quando gli strumenti vanno male, mi rode, sono così. Adesso c'era a cambiare quello del Typho, quello modificato cosa. Adesso vediamo un po'. Perché quello che c'era qua non va. È inchiodato. Adesso vedo un po' cosa riesco a fare, va. Avanti, riprendi Natalia che mi vesto, io va. Che mi sono fatto una bella doccia in campagna. Adesso mi vesto che tra un po' vado a casa. Cava. Io c'ho a Varo quello Smither del 3009. Quello è a Varo a morte, però non lo butta via che è omologato. E anche il mio, avanti Daniele. Bene, Meda, cosa li hai messo? I LED li hai messo tu? Sì, qua ho messo il LED bianco, sì sì. Già fa bella luce, chiara. Anda Benemeda, riprendi Natale. Quanto ti sta arrivando di segnale, Daniele? 9.10, modulati 9.15, sì, Natale. A te che faccio una cosa, a vedere se come funziona la situazione qua. Prova, prova. Guarda adesso, 1, 2, 3. Sembra meno amplificata adesso, o sbaglio? La radio meno amplificata. Sì, alzemo, era basso basso il microfono. Prova a aumentare leggermente, ma poca roba viene a tali. Guarda, così bene va. Così va bene, sì. E il segnale com'è? 9.20, sì. Chiaba, chiaba. Sono rientrato. Eccolo. Tu ti stai aiutando sfacciatamente, Daniele. Cosa? Ti stai aiutando sfacciatamente. Io sto uscendo con 7 watt, 5 watt. C'è una bomba, c'è un segnale allucinante, 9 più 30 sì qua. Sono liscio come l'olio, Robè. No, era una battuta, sto dicendo, arrivi fortissimo, uno dei più forti, ma a parte vabbè quelli che c'ho vicino. Sei quasi col segnale di coso, di Marco. Già funge tutto, che se l'avessi messa dove avevo pensato io, andava ancora meglio. Ma che antenna è questa? L'Energy 5 ottavi, è la solita, Robè. Quella che avevi sempre. No, vabbè, prima all'epoca c'avevo la Matova Turbo. E che fine ha fatto con l'antenna? Smontata e data. Ma come era andata via? Non ti biasia? No, perché all'epoca non stavo abitando qua, Robè, capito? Fine si stava rovinando tutto e avevo staccato tutto. Ma sei dove abitavi prima quindi? Da 8 anni a questa parte sì. Va bene, dai. Ti ascolto bene. Ok, Natali, vai a te. Anche io ero liscio. Sono i vostri dell'apparecchio. Qui. Adesso con 4 watt. 4 kilowatt, non ho capito bene Natali. E allora? ho visto un'antenna nuova, mi hanno mandato il video di questo progettista dell'Assirio, ed è l'imitazione della limitazione migliorata della mantova, che ho visto la costruzione, ci sono una marea di pezzi per farla, ma hanno fatto le prove strumentali, non a orecchio, con i misuratori di campo e coso, per vedere in ricezione è molto meglio della mantova, c'aveva un guadagno abbastanza rilevante, in trasmissione erano più o meno uguali, ma in ricezione era molto più silenziosa, è lo stesso progettista della cosa, della Sirio. È una bella antenna, fatta veramente bene, ho visto tutti i video che ha fatto quello Radio Killer, gli hanno mandata in prova e ha fatto prima la porta alla scatola, l'ha fatta bene, ma tu devi vedere la qualità dei materiali, eccellenti, poi il peso, il piantone confronto alla mantova, il dubbio, no? Li ha pesati, hanno fatto la prova di peso, la differenza è esorbitante, ma tu devi vedere come è costruita, tutte le vitterie, tutti l'attacco del PL ce l'hanno fatto fare specifico su disegno loro, non con la cagata che c'è della mantova, e hanno fatto un confronto, mi dare quanto costa perché l'antenna è costruita veramente bene. Sì, me lo posso immaginare, vabbè. Io ho la mantova 5 in campagna ancora che se ne sta ridendo, però come fa a portarla qua? È un mazzello, troppo bisogno. Io ho la energia come quella di Marco Condo, di Daniele. No, da più o meno funzionano tutte bene le antenne 5 ottavi, perché le misure sono quelle, però hanno fatto una prova strumentale con lo strumento proprio, con il misuratore di coso, di radiofrequenza, non a orecchio o col coso, proprio strumentalmente, due antenne montate vicine, 20 metri di distanza erano, hanno fatto le prove di rumore, il rumore molto più basso quello di questa antenna qua, però aveva un segnale più alto rispetto all'altra, trasmissione erano simile, hanno fatto le prove al contrario, in trasmissione ci equivalevano più o meno. Sì, ma più silenziose sono meglio è, che ricevi meglio, capito? Specialmente per i DX. Sì, sicuramente, naturalmente poi dipende anche le zone, perché io qua ho molto rumore di fondo con questa radio, con l'altra un po' di meno, con quella più grossa. E dipende anche dalle zone, appunto, se c'è disturbi di linee elettriche o cose del genere. La mantova in trasmissione funziona abbastanza bene, non posso dire niente, l'antenna che ci avrà 50 anni di progetto, forse 50 no, ma 40 ce li ha, per cui è costruita, solo le nuove le hanno fatte un pochettino più leggerine. Questa è impressionante la costruzione, i tubi dell'alluminio sono molto ma molto più grossi della mantova, tiene dichiarati naturalmente 5 kW e le prestazioni, hanno fatto tutto il grafico, tutto quanto dei valori, sono valori reali, non balle, come molte scrivono guadagno 6 dB una mantova e fa ridere, questo c'è scritto guadagno 1 dB 25 mi sembra, un guadagno reale per un'antenna verticale. E infatti cosa 6 dB lui? Lasciamo perdere. 6 dB ce l'ha la 4 elementi che c'ho io, ed è un'antenna enorme, come cacchio fa una verticale a avere 6 dB, anche nella mantova tubo nelle istruzioni scrivevano 6 dB di guadagno, ma dove? Infatti ci credo, della direttiva ci credo, ma la verticale no? Non fa, capito? Eia, vai Daniel. Buonasera, ciao Roberto, ma grazie. Ciao Tino, ben sentito. L'antenna qual è? Quella Grazioli? Quella lì, Grazioli. Io ho visto, l'hai visto il video, Tino? Sì, me l'hanno mandato, è bella. Ciao a tutti. Sì, sì, no, almeno poi bisogna provarla sul campo, però non credo che quello abbia raccontato male, perché c'era un tecnico vicino a lui, ha fatto le prove strumentali e il rumore era molto più basso. Perché magari la mantova, se avesse meno rumore, sarebbe stata un'antenna perfetta, secondo me. Sono impegnato qui. Ti ho parlato sopra, Natali, scusa. Va bene, va bene. Vai Daniele. Salutami a tutti, allora, là. Ci sentiamo in un altro momento. Ciao, ciao. Va bene Natale, alle prossime. Ciao Tino, ben sentito. Ciao Daniele, aspetta un attimino che mi ero accorto che ero... Scusate. Ero attaccato. Sono una bella radio. Sì, no, questa è una delle più belle in assoluto, te l'ho sempre detto, non so cosa sta uscendo, questa modulazione è una delle migliori. No, così, è un baracchino questo, è un Intec, ho sempre detto, il 5005, è abbinato con un più 5, e vabbè, queste sono le sue watt dalla casa, anzi no, un pochino tirato, però credo da mezzo watt a 18 watt modulato. Tu 9P più 10, con i picchi arriviamo per più 15, che ce li hai belli puliti. Ma è cazzo, ma guarda, adesso lo abbasso, vediamo, guarda. Eccolo qua, questo è un 5 watt. Da 9 passi a 9,10 con i picchi. Spinge, mi piace questa radio perché i picchi forti. E poi ho notato che qualsiasi amplificatore di attacchi, tranne un po' il valore che magari spinge troppo, spinge più di 600 watt, 700 watt va un pochino in saturazione, però gli altri li mantiene bene. No, già sta andando bene, piace a me, non è una radio piacevole, non è di quella bombardamento che ti fa sordo, che non dici, non capisci quello che dice, perfetta, niente da dire. Daniele, dimmi una cosa, ma la gente era, cosa c'era, qualche, la domenica scorsa, qualche manifestazione di fuoristrada? Sai che, mi sa di no, Robè, anche non siamo usciti a fare un giretto così, ma niente di che. C'era un bel DJ, a parte i camperisti, era pieno di camperisti, stranamente non ve la vorrei stare perché non ti fanno rimanere, la gente era dall'estate scorsa, hanno messo una marea di muto, invece c'erano almeno una quarantina di camper, e poi a quel posto che io non ci sono mai andato, che ci voglio andare a Lugantaro, al parco di Lugantaro, vicino a Palmadula, c'era lo stesso una manifestazione lì, sono entrato e mi hanno detto no, oggi non c'è posto, la sera sono andato al rientro, sono tutto prenotato, non abbiamo più spazio. Mi ha detto poi, c'è un amico, dice, c'era la manifestazione, ha detto non lo so, Robè, che lo sappia non lo so, però non so dire. Cava. Poi di gente che ne sta vendendo non ne conosci, Robè? Dimmi che macchina vuoi. Non lo so, dipende dalle condizioni in cui è. Te l'ho detto, queste sono le tre marche, diciamo. Ho un Discovery, ho il Pajero, non il nuovo, ho il Toyota, quello cinesino se non ne vogliono troppo. Oh, vai più su. Beh, chiama Walter, no? Cosa c'ha Walter, perché? Chiamalo, vuol dire che se ti interessa. Daniel, cava. Ho visto in officina è venuto un nuovo, doppia cabina Toyota, Hilux, tu c'hai di regola la macchina, è spettacolare, con roll bar grosso dietro, non so se l'hai visto. Già l'ho visto che c'ha il muso un po' a punta, c'ha. Ma bella, ti posso dire anche da guidare, è bellissima, guarda, io non è che c'è amante fuorizzata, è anche una bella con telaio portante, non è a scocca portante, a telaio, ancora diciamo per fuorizzare a rudo, altissima poi, una cosa esagerata da quanto alta da terra. Al Ford Ranger, non ti piace? Cacchio, bella rete. quello è bello il Raptor. Già è bello, ma il Ranger la verità non mi ispira, l'ho usato, guarda, anche antincendio, ce l'avevo, guarda, è mezza cagata. Ma è il nuovo stai parlando? Quello con la scritta Ford grande? Quello con la scritta Ford grande, quello è il Raptor, che è il gemello del Ranger. Marwe. Quello no, quello va bene, io sto parlando del Ford Ranger. Perché costicchia, quello è, poi tutta elettronica, troppo incasinato, quello va bene a farti un'escursione così ti fai il tuo giretto in qualche posto in campagna, ti fermi con la famiglia e ti fai la tua arrostita e te ne stai tornando, capito? Ma per come lo usiamo noi, in poco tempo non c'ho più macchina. Registrato. Perché se ti interessa uno fuoristrada da battaglia, ecco. No, proprio da battaglia, sono mio, Roberto già l'ha visto com'era il mio, cavolo, era sembrava appena uscito dalla concessionaria. Però che sia anche resistente, capito? Perché poi devo fare tutte le modifiche e tutte cose. Però bisogna anche già prestare, deve avere già una base di natura per poterlo fare, capito? Ho capito. Ma fate il break, con la buonasera. Buonasera a tutti, dai, Gianni di Piemonte. Perché stai urlando già? Non ti stavo riconoscendo. Ma che cosa? Ho detto, perché stai urlando? Non ti stavo riconoscendo. Ma cosa? Come va? Non già, buonasera. Non lo so, bassa di modulazione, mezzo impastata e quant'altro. confermo già, sta facendo male. Ecco, l'altro giorno eri bellissima con la radio, ti ho fatto i complimenti, non ti avevo mai sentito la faccia di un radio all'antica. Forse ha sbagliato il microfono. L'altro giorno c'era una modulazione spettacolare, mai sentito la gente uscire così bene, proprio sembrava una telefonata. Sembra che c'è il microfono attaccato alla bocca, mi sei tutto impastato. Ah, parli un citofono già, che parli con un citofono, non è modulazione chiara. Bianco, per me, scusate un attimo. No Gianni, non è la tua solita, non sto andando. Adesso non sento per niente il radio. Adesso guarda, sono uscito. Sì, ma non è bella la radio, e adesso si... o canti forse viene anche attaccato. Ah, no, non è... insomma che è il microfono attaccato alla bocca e... il citofonica e... non bella. Okay. Sì, conferma. Quindi Gianni, ma ti stai dando al fuoristrada? Io me l'ho già data al fuoristrada, sì. Io ho avuto già due, sto prendendo il terzo alla fine. Ah, cazzo. Bene, bene. Come si dice, Alberto Peano, se non mi sbaglio, con te esce? No. Non... mai sentito la verità si dica. È quello con il fuoristrada rosso che ha l'antenna al baracchino lo stesso? No. Notti. Con noi no. Almeno che non si è venuta qualche raduno, però non... Metasicca non è il nostro club. Ah, cazzo, no. No, pensavo che ti interessavano delle macchine normali, diciamo, non fuoristrada di quel tipo e genere. Allora niente, perché Walter potrebbe accontentare la tua richiesta, ma pensavo che erano altre tipologie di macchina, capito? Noti, il problema è che anche insomma difficile trovare l'occasione da cogliere al volo, capito? Anche perché adesso con la storia anche in continente molte macchine non possono più circolare e quindi se le vogliono vendere. Il problema è che c'è il coso del Covid, non ci puoi andare, e qua in Sardegna per adesso ce ne sono, ne ho due, diciamo, sott'occhio, ma niente di che, capito? Poi tutto da vedere. Bene. È un casotto, Anche perché io ho trovato l'occasione per venderla, ne ho approfittato subito. Adesso devo trovare l'occasione per acquistarne una a poco prezzo, ma in ottime condizioni, capito? Sono rientrato da ottime condizioni. Il Freelander TD4 non lo utilizzate come fuoristrada? No, il Freelander... c'è qualcuno che si avventura, ma no, non mi ispira. No, è un SUV, non è un fuoristrada, ecco. Ehi, arrombè. Poi adesso vediamo cosa si riesce a combinare. Land Cruiser non ti piace? Quale però, Robè? Il vecchio modello è Land Cruiser, È il vecchio sto parlando, non il nuovo. L'LJ70 stai dicendo. Ehi, a quello lì, forse è un po' troppo ingombrante per fare certi tipi di fuoristrada, ma è bello dosso questo. No, guarda, mi sa che il più grande, il più mastodontico è il Patrol. Vabbè che c'è anche passo corto lo fanno, quello che c'è doppio, come si chiama? Passo lungo e passo corto lo fanno quando il Toyota. Breaky. Registrato il break, avanti con la buonasera. K73, ok. Roberto? Che stai nel radio? Abbassa il volume, mi stai facendo assurdi. Ciao Tony. Come ti arrivo, bene? Ti ascolto forte e chiaro, pure troppo forte rispetto a loro, sì. Da parte mia dovresti abbassare un po', dai. Chiedo con Formattino, che lui è forse un po' più lontano di me. Ok, sono Tony e Piattino, dai. Vediamo un po' come ascolta lui. Sì, io ti ascolto bene qua, con questa radio qua. Con l'altra, no, se dire la verità. Ciao Tonino. Cioè con l'altra? Cioè? con l'altra che stavo utilizzando 3 secondi fa, ho cambiato il radio. No, veramente, io sono a Torino e non ero io poco fa, l'ho appena acceso adesso. Sorry, ma sei rimbambito, rincoglionito o luminoso stai inventando? Ti ho detto che poco tardi ti stavo ascoltando 3 secondi fa con un'altra radio e non andavi bene per me, ecco perché ho cambiato il radio per ascoltarti. E ti ho detto ciao Tonino. Non ti avevo ascoltato, la radio avevo la televisione accesa con mai auto. Ok, va bene, ti ringrazio, dai, ok. Ok, con questa... Questo sei troppo forte, devi abbassare un pochettino anche tu. Per quello che ho alzato questo. No, fatto. Sono acceso. Bianco un secondo. Comunica a me, se la faccio troppo dietro. Questa è bella chiara, forte, però sulla parte mia è troppo forte. Sì, ma si era. Guarda così. Abbassate un pochino, vabbè, c'è un po' di bella familiare anche. La radio è bellissima, chiara, però a parte il sento tutto quello che c'è intorno. Infatti, è conviene utilizzarla quando non c'è nessuno questa. No, questa è bella, così è un K questo. Sì. Inconfondibile, la modulazione è bella, forte e chiara. Solo che non si è acceso, però questa già va di subito di suo. No, no, questa è... sono le migliori, senza dire niente agli altri, queste sono le radio migliori. Come qualità, bella emissione, poi piena, non le manca niente. Beh, la gente a cavallo, mando per X, poi magari le prendo. Ok, salto. Ehi, ciao a te. Tony, c'è ancora? Scusa, Daniele, si è spostato, chi c'è sul 10, che è rimasto? C'è qualcuno sotto che sta parlando, non capisco chi sia. Va bene, dai, mi allontano qualcosa a 20 minuti, semmai ci sentiamo dopo, se c'è qualcuno, dai. Vabbè, io sono qua in codice, tanto non fa... stanno chiacchierando in verticale, quindi non presta via. Ci sentiamo qua, sono qua in codice. Ehi, a dopo allora, ciao. Originale. Me lo fa sentire quella. Ma va bene anche la Galaxy questo qua, l'altro? Sì. Aspetta che non sono perfetto, chiedo. Già, che mi sono allontanato un secondo, vai. Sì, guarda, se sto parlando più lontano, guarda come va. Per me devi abbassare un pelino, poi non lo so gli altri come ti ascoltano, ma con che radio ti ascoltano. Guarda, adesso l'ho abbassato un pelino. Così è meglio. E allora lascio così, dai. Gianni, come ti sento? Beh, tu lì. Sto usando col microfono. Ti sento bene. La radio normale, ma ti sento bene. Ok. Dalla gara. Questo piedino, grazie, che c'è una batteria, è un po'... Ma già, ma quale stai usando? Il Galaxy? Ehi, è il Galaxy! No, non so che microfono stai usando, ma boh, la valutazione non dobbiamo cacciare, devo essere sincero, già. Sei forte, è chiaro, da questa parte. Un turner più tre. Vabbè. Io radio così non ho mai sentito la verità, così perfetto. Poi tu già ti puoi ascoltare già, sì? Sì, sì. Come ti senti, bene? Ma a volte quella cosa inganna, a volte quando tu ti ascolti nelle cuffie sembra che esci bene, invece poi in definitiva non sei perfetto, capito? Vabbè, ma comunque, in linea di massima dovrebbe andare bene, dai. Adesso io li metto in linea a questo coso perché balla un po', balla un tantino. Vabbè, dai. Così l'ho regolato un pelino di meno, dai. Spero che vada meglio. Bene, adesso sto dando il lock. Sempre forte squillante. Adesso potrei dire che è Franco, può chiamarlo, aspetta un po'. Lo sento di spalle, ma aspetta un attimino. Scusate un attimino che vado a fare un attimo di crescita. Eia. Torino. Eia, ho aspettato. E quindi? E quindi pariri. E prendi il pariri a questo punto. Io penso che pare non te l'ha detto Franco, Allora forse sono abituato a aspettare per un modo, non dico questo, dico cose diverse, però non sono abituato soltanto a una rete così forte, capito già? E vabbè, anche l'altro non è da poco, anche l'altro è forte. Ma questo è molto convento, sto dicendo. Se tu vieni qualche volta, modulava la casa tua, giustamente, se senti da un'altra parte, vedrai come sarà la modulazione. Franco, ci sei? No, Franco ci vedi tu. È arrivato là. Un attimo che guardo se ci sono dei piedini, dai. Da Franco io passo su 23 euro, dai. È appagato. Ma ci vedi io su 23. No, andate tranquilli già, che sto facendo una cosettina qua. Sì, va bene, dai. Se vuoi passare, dai, che c'è anche Franco, lo stavamo cercando stasera. Va bene, dai. Se vuoi venire, passami, Massimiliano, non c'è problema. Mi dispiace lasciarti di solo. Io non ti preoccupare, già andate tranquilli. Io lo rimango solo. Me ne vado da tua bando, ascolto. Tranquillo, ciao. Chi è? Vai, che giornata solo, vai. Ciao Daniele. Buona Massi, buonasera. Che ti è arrivato qua? Mi sono allontanato. Io sto guardando un bisteccone che stanno tagliando, porca miseria, che dopo mangiato ti fanno vedere ancora qua. Quello sì. Cava, cava. Cioè, sono una fiorentina, boh, forse si ripa, sarà alta. Cosa vuoi che dica? No, io oggi ho roba diversa, sono andato là fronte, vai, la tua bistecca. No, io oggi ho mangiato pasta e ricci, pasta del corso perché ha fatto due tipi, tre tipi ha fatto, era uffa dei bambini. E poi calamari fritti. Va bene, ok. Ma lei quella là stai usando? Una conoscenza è che prometto sono andato a farmene stamattina. Vabbè. Ehi Amacci, ehi io c'è il costume oggi con i filmari, però sai, c'era quell'onda lunga quando arrivava lo scoglio, capito, mi sono fatto tutto quanto a beffa, mi ha tutto bagnato, capito, e quindi niente, la prossima volta se vuoi venire, io vado presto, è tipo le 7 e mezza, già giù, alle 9 e mezza me ne sto andando. Vediamo, fammi una massa, per me, ma come mi organizzo, con i filmari? Io ho solito sicuramente così a piedi nudi. E io quando lo fece piedi nudi e un paio di scarpe là, mi ciabatte, dico no, ma roba così là che puoi camminare sugli scudi. C'era un po' di alta marea oggi, capito? Quindi se mi è stata a bassa marea guai, l'avevo fatto la butta piena. E nel compenso ho fatto anche un po' di domattina, no? Buona, quello che faccio meglio per te no? E con un cigno che lo devi fare, come lui va la notte sua. Avanti Daniele. Comunque confermo la tua risposta, la tua domanda è Massimiliano. Sì, si sente, va, la motorina andando. Va bene comunque, ultima. Mi chiedi a manetta ce l'hai? No, no, non è a manetta. Se no guai. Si parla un po', no? Si sente un bel vento, la vento lo sento, sì. Lì non ci posso fare niente, guarda. Adesso sto sollevando, adesso è a manetta, guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. E c'è la manetta, che va bene. Ma qual è quello che mi state dicendo, Massimilia? Che cosa? Cos'è, l'ampli? No, quella di cosa? Di Daniele, sto usando. Tipo questa, là. Ah, ho capito. No, quella pentola di Daniele. No, sicuramente c'è una di alimentatori vicino, là. Vabbè. Dai, riprendi, mi devo ascoltare un messaggio. Ehi, aspetta un attimo qua. Ok, adesso ci siamo. Gli alimentatori li avuti sempre così, soltanto che questo è tribola da sistemare. Ma già lo sistemiamo, dai, prima o poi già mi organizzo. Già va bene, è che ti ripeto, parlato anche l'altro giorno, c'è un po' di vento forte dalle tue parti. No, non hai detto neanche sbagliato, perché cavolo, tira un'aria qua che sembra che c'ho il ventilatore acceso io, perché mi sono fatto un soppalco e ci sto giusto io seduto, capito? È abbastanza basso, ma qua come tira l'aria la ventolina, cavolo, tra un po' devo mettere la cuffia. Tutto non si può avere notti, bisogna arrivare a un compromesso, sennò qua mi picchiano. Se mi preso certo, vabbè, io diciamo che sono in campeggio, sono grande, quindi raccoglie, se c'è un programma familiare lo sentite, non è che non c'è una camera mia solo esclusivamente per la radio, capito? Magari, guarda, ma c'è un tempo, ma non c'è proprio lo spazio fisico per poterla creare, capito? Ora mi faccio una camera dei ragazzi, poi diventa un casino, mentre qua, guarda, preferisco stare in questo pezzettino qua, piccolo, basso, e sono da solo. Ascolta, nell'alimentatore non lo puoi allontanare da lì, lontano lo puoi mettere. Lontano, Massimiliano, ho finito lo spazio dove poterlo mettere, prima era a sinistra, diciamo dalla parte dove salgo sul soppalco, in cima, e si sentiva ancora di più, adesso l'ho messo verso il muro e non c'ho più spazio, ma è lui che è proprio così di natura, capito? È rumoroso di natura. Non veniva la ventola. Magari, che mi si cucina a rotto. Ma che lo scaldano, non va più, ma lo metti un coso, lo metti, un termostato, un coso. Così c'avevo quello Proxel io. Cioè il termostato e si agganciava e poi si staccava, capito? Poi questo secondo quanto consuma aumenta i giri della ventola, l'assorbimento. Vabbè, cosa ci vuoi fare? C'ho il drone 2, hai visto? Ho visto, oh, ma chi tu è micidiale però? Guarda, il drone 1, come quello non ce n'è, no? Sono vero. Cosa, Massimiliano? Sono vero. Però vedi, con dei microfoni normali non si sentono. No, vabbè, questo è più amplificato, cavolo, ti tira tutto quello che c'è attorno. va bene tutti. Scusa che sono qui, sono seria, riprendo subito. Ok, va. Va bene, va bene. Ma quanti vatti ce l'hai messo di portante bianca quello, Daniel? Questo guarda è a 10. A 10, tondi, tondi. Poi magari lo avevo messo un pochino di più perché quando lo accendi magari poi se vai a modulare ti modulare a 5 watt. Quando è bello caldo lo metti a 20. Vabbè, infatti adesso è... No, ma questo è acceso da stamattina. E sono... 20... No, sì, no, è più di 10, no, Massimiliano, aspetta, guardandolo bene. Sono intorno ai... 20 e qualcosa sto segnando adesso. Buono, buono, va bene. Non di più. Se no... No, non funge. Comunque si è tornato alle origini, ragazzi. Sì, le mani me ne devo tagliare all'epoca. Sì, cioè tutto completo, è la linea. Anda bene, vena, oh yeah. Va bene. Le scimmie ritornano. Sì, ma va, si è attrezzato bene per ombre. Se lo trovo qua, avevo una bassa alta. Ehi, a te. Allora posso dire di sì, Massimiliano. Non posso lamentare, va giù tutto, si può dire. A proposito, chi è che ha da vendere un raccordatore? Io non ne ho. Ne ho uno della ZKG, ma non sono d'accordo. Ma dovrebbe funzionare. No, qualcosina di più selettiva. Io, vabbè, della ZKG ho questo HP21, ma lo uso per vedere i fatti che si altro. Quindi stanno dando un atti 250, ti interessa? No, 250 euro. No, 220. Magari si è messo a 200. Ma chi è quello che ha comprato con la persona là per poi poterlo vendere a 250 a un'altra persona senza fare nome? No. Tranquillo. No. Non mi interessa, no. Questo c'è un raccordatore che... Non lo voglio mettere... Lo voglio mettere per quel baracchino lì, quindi insomma, non voglio spendere tantissimo per poi non utilizzarla, perché se lo faccio una coppiata con il valvolare, il suo accordo ce l'ha, però vorrei fare uno e l'altro, capito? Vabbè, ma non ti pigliati buono non becca, amico. Cioè sì, se ti prendi una cosa intermedia, capito? Non ti prendere una cosa che è un po' così. No, infatti, per concreto, se la ZG io solo quello, non mi interessa, sto cercando qualcosa di più selettivo, però senza spendere un patrimonio, anche perché tanto non è una cosa che utilizzo come se utilizzano la radio. C'era un bel MFG, quello che era bello, quello che accordava anche il cacciavite. Va bene. L'hanno già dato, però purtroppo. Vabbè. Guarda che c'è un MFG automatico, mi stanno vendendo. Spara. Mi sembra intorno alle 200. Ma c'è un bene. Cosa? Se lo dici una volta mi sembra anche l'altro, ma c'è. Daniele, ti ha appena detto che non vuoi spendere così tanto. Non stavo seguendo perché stavo parlando qua con la 25. No, vabbè, se così. Domani devono entrare e comprare qua a casa, qui devo spendere anche per la gru e ballerare. Quello che devo gestire, devo adattare, devo fare i lavoretti, insomma, sono cose che pian piano mai farò, però allo stesso tempo se trovo l'occasione lo compro. Ti metti tutto dentro il container? No, ci stavo pensando, ma ci vediamo, lo voglio utilizzare per altri scopi, perché stiamo andando incontro all'estate, che se faccio nuovamente di cui stiamo parlando poc'anzi, lo sto abilitando come una sorta di cellafrigo, capito? Quindi dei vanificatori, con salata e quant'altro, per poter fare la stagionatura nel miglior modo possibile, capito? Perché poi bisogna anche di una relazione particolare, cioè non è che gli mandi solo a fredda e basta, capito? Ho capito. No, pensavo che mi trovavo un angolino per farti cominciato con lui. E quindi sono belli, voi che avete fatto, se non ci avessi il condizionatore, che vedete un casino. No, guarda, l'ho provato anche oggi, perché, allora, diciamo per il faccio, l'ho parcheggiato dalla strada di casa, perché il camion gru che abbiamo noi, è 9 metri, e per 10 centimetri non è entrato in casa. Allora cosa ho fatto? L'ho fatto parcheggiare sempre nella strada mia, però nella parte più larga, e l'ho messo lì. Il container non è grandissimo, è 2,50x3,50, però va più che bene per quello che voglio fare io. Ci stavo pensando a fare una cosa del genere, sono entrato oggi proprio all'ora di punta, a una compensazione di 15 cm, quindi ti posso dire che era una cosa che utilizzavano dove c'era tutta la strumentazione dell'Enel, quindi è coibentata proprio perché le macchine erano state al fresco, capito? Ecco, vabbè, ma poi una volta che te lo piatterai a casa tua si può fare sempre una tettoia dove non farvi toccare delle canne, cioè ci può organizzare bene, va? Sì, ma per quello non ho problema, ma poi già vedendo la struttura, per com'è, non credo che ce ne sia bisogno, ma se ne ha, perché sono entrato parecchie volte, ci avevamo in capannone noi, no? Sempre fermo, sino a che poi l'ho chiesto, me l'ha dato senza problemi. Quindi entravo, uscivo proprio per vedere se teneva la temperatura, poi se c'era caldo, capito? Invece è di lusso, perché anche le finestre, quindi lo puoi aprire presso di notte per farla viaggiare, è una cosa bellina. Ti manderò le foto domani, adesso vedo se di organizzarmi domani mattina, domani sera, quando scuola al lavoro, col camion gru e portarlo dentro a casa. Gappa, buono, avanti Daniele. Andiamo bene, Meda, aspetta che vado a farmi una boccata di ossigeno e torno subito. Ah, fuma? E si conferma. Ma non avete sigarette, che? Sai cosa devi fare, mi piace lì con la camera, con il trappolo, ti fai un buco nel muro, ti fino una cannuccia, la devi fumare e ci butti fuori fu. Ah, vero, io, Massimiliano, tanto confina col terrazzo, quindi non è un problema. Che potresti fare però effettivamente un furo con la fece da lui, con una ventola da spiegazione e niente, il fumo se ne va direttamente lì. Sono stati vedere. Ma domani lo vedi con Gozo, con cancellatore. Guarda che ci sono quelle ventole del computer. Che fa la sopra, ricatta sopra, dove fumi tu e quindi e la lì aspira. Io se no la lampada direttamente la sigaretta è meglio. Sono nata ben quasi 17 anni fa, che Io l'ho mollata già due volte. La prima volta sono stato un paio di 3 anni, adesso sono già 6 anni che l'ho mollata, ma ti dico che è una cagubba. Se poi fu via con i sigaretti è nato, no, mamma mia, se ci ripenso. Anche io ho fatto come te, per 3 anni l'avevo mollata, poi eravamo a pescare, un ben paranoia, non stavo mangiando, c'era mio compare, ex mio compare, perché anche lui ha sbagliato nel modo di comportarsi e quindi è un ex. Vabbè, fai due tiri e da lì poi ho ripreso. Dopo mi sono tornato e ho detto, beh, da oggi non fumo più. E sono muore 17 anni se fa, senza toccare. E meglio è che lui, ma guarda, io adesso quando mi si avvicina uno che ha appena fumato, mamma mia quanto si sente, pucci, che odore. È vero, io me ne accorgevo, sì, me ne accorgo più.